Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Cerchiamo di capire come la società umana considera, tratta, pensa la sua relazione con gli animali altri e siamo al fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista di diritti che pensiamo spettino loro. In questa puntata parleremo della situazione della guerra in Palestina, parleremo di un incendio che ha sacrificato molti animali nella provincia di Lecce, parleremo di orsi, dei due cuccioli di Amarena che stanno bene, ma anche di altri due orsi che sono stati trovati uccisi in Trentino, della grande manifestazione in piazza che si è tenuta a Milano il 7 di ottobre per protestare contro l'eccidio di Sairano, nel quale sono stati uccisi in un rifugio, in un santuario, 10 maiali liberi. E non mancherà la solita ricetta vegana a tema, curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale di questa settimana invece è curato da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Ci sentiamo di iniziare questa puntata parlando della nostra prospettiva rispetto al conflitto tra Hamas e il governo israeliano. Noi siamo qui contro ogni guerra perché ogni guerra è prima di tutto una guerra alla natura. La natura è sempre vittima dei conflitti armati, con il suolo reso infertile, con le piante seccate dal fumo e dagli incendi, con gli insetti e i piccoli e grandi animali vittime di armi da fuoco o uccisi dalla fame, che muoiono spesso dopo lunghe agonie. Viventi incolpevoli, cioè senza colpe, e innocenti, cioè incapace di nuocere. Così come è stato per la guerra tra Russia e Ucraina, anche in questo terribile e violento conflitto umano, troppo umano, noi ci sentiamo di denunciare che ad andarci di mezzo sono sempre le solite eterne vittime, gli umani civili, il suolo, le piante, gli animali incolpevoli e innocenti. L'animalità invece non conosce confini, non conosce frontiere, non conosce stati né cittadinanze formali. L'animalità abita l'intero pianeta e si sposta da quando esiste la vita sulla Terra, secondo logiche che sono quelle di opportunità, di bisogno, di desiderio. Gli animali altri muoiono a causa dei fili spinati, dei muri, dei confini innaturali, di tutte le barriere che vengono alzate per respingere dispositivi contro natura, nemici della nostra stessa animalità, che è libera, che è fluida, che è globale. Nessun individuo ragionevole può pretendere, dal nostro punto di vista, che una terra sia solo sua. Nessun popolo è mai definito fino in fondo, né può pretendere di avere un legame preciso a una certa terra e da questa poi a una certa nazione e da questa poi a un certo stato. I cultori degli stati nazionali si sono già resi responsabili di due guerre mondiali e ancora si sta uccidendo per la proprietà esclusiva di una terra, di un suolo, che sono in realtà a disposizione di ogni vivente, che hanno consentito lo sviluppo di noi viventi proprio perché erano a disposizione di tutti. I cultori degli stati nazionali si stanno rendendo responsabili di un patriottismo che è sempre agito contro l'altro, contro il diverso da sé, l'estraneo. Noi proponiamo una pace diversa, proponiamo una pace animale, una pace che consenta a ogni vivente la ricerca di risorse, ma anche di sogni, sempre e ovunque. Se il diritto e le convenzioni non lo consentono oggi, dovranno consentirlo domani. Donatella di Cesare, una filosofa italiana molto acuta, propone il nuovo concetto di straniero residente. Siamo tutti stranieri laddove soggiorniamo, così come fanno gli altri animali. Tutto è impermanente, tutto è transitorio. L'identità va fatta scorrere come il fiume, mantenuta in movimento. un mondo ricevuto in custodia che non appartiene a noi, che non appartiene a nessuna animalità in particolare e prima che a tutte le altre, e che riconsegneremo alle animalità che ci sopravviveranno. Una società quindi della cura interspecifica in una prospettiva aperta e fluida di non appartenenza. In nome di questo futuro che è ancora in gestazione, la redazione di Restiamo Animali accende un piccolo lume per ogni animalità spaventata dalla guerra, ferita nel corpo e fiaccata nello spirito. Come ci raccontano gli attivisti che entrano negli allevamenti, che per ragioni di buon gusto e di mercato sono sempre sottratti alla vista e alla sensibilità di noi consumatori, gli animali non smettono un attimo di resistere, di tentare la fuga, di ribellarsi alla loro condizione prigioniera e schiava. Lo sanno molto bene coloro che studiano e producono sistemi di contenzione, in particolar modo le gabbie, le catene, le transenne mobili, i camion destinati al trasporto di animali vivi. Questi sistemi si evolvono in continuazione per domare il naturale, innato, incontenibile desiderio di libertà che hanno tutti i viventi, anche quelli progettati geneticamente per essere docili. La contenzione causa negli animali non solo indicibili sofferenze, ma causa anche la loro morte, impedendogli di mettersi in fuga e salvarsi in caso di calamità. Possono essere alluvioni, incendi, terremoti. Segnaliamo sempre questi eventi luttuosi quando avvengono e quando i media li riportano. E anche questa settimana purtroppo abbiamo da segnalarne uno. Martedì 17 ottobre è divampato un maxi rogo in un'azienda zootecnica di Nardò, in provincia di Lecce. Il fuoco purtroppo ha raggiunto anche la stalla e tantissimi animali sono morti, bovini ed equini, e da una prima ricostruzione che abbiamo trovato nei media sembra siano tante decine. E altri animali sono rimasti feriti. Le fiamme e una coltre di fumo denso hanno avvolto questi cavalli, asini, vitelli ricoverati nelle stalle. 18 mucche con certezza hanno perso la vita, ma la conta è sempre molto sommaria. In questa azienda si allevavano cavalli, mediamente ce n'erano tra i 2 e i 300 e gran parte di loro, secondo le prime informazioni, sarebbero morti, arsi vivi, nelle fiamme. Questo orrore sembra essere stato causato da un guasto elettrico, ma in realtà la vera causa è proprio la contenzione e lo sfruttamento di questi animali. Un altro aspetto grottesco è la sorte degli animali sopravvissuti e magari anche rimasti feriti, che sono stati convogliati in un terreno adiacente, verranno curati per poter continuare a sfruttarli. Quindi se guariranno non ci sarà alcun premio di consolazione, verranno venduti, macellati, sfruttati esattamente come era nei piani iniziali. So I listen, he's a calm type. I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come forth. They juice me, seduce me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. It ends in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down a corridor. My brain thinks bomb-like. My brain thinks bomb-like. My brain thinks bomb-like. Beware of our appetite. E dall'incendio della Puglia andiamo a parlare di orsi. Dopo Juan Carrito e Amarena, che sono stati uccisi in Abruzzo, dopo i molti orsi condannati a morte o all'ergastolo dalla provincia autonoma di Trento e dopo che sempre nella provincia di Trento F36 è stata trovata morta, adesso altri due orsi sono stati trovati sempre in Trentino morti. Salgono dunque a 7 gli orsi trovati morti in Trentino nel 2023 e in 15 anni sempre in Trentino c'è chi ha censito 57 orsi morti. Anche il CAI, il Club Alpino Italiano, si è mobilitato contro la moria di orsi che si sta verificando in Trentino. Questa ci sembra una cosa curiosa, che il Club Alpino Italiano si sbilanci. In un comunicato definisce questa situazione anomala e preoccupante e lascia ipotizzare reati di bracconaggio. Contro questi reati continua il gruppo di lavoro del Club Alpino Italiano sui grandi carnivori. Non c'è stata una netta presa di posizione da parte delle istituzioni ed è urgente invece che i soggetti istituzionali preposti intervengano per porre fine a questa inaccettabile situazione. Quindi il Club Alpino Italiano fa una vera e propria denuncia. In caso contrario si potrebbe mettere a rischio il futuro dell'orso bruno sulle Alpi e tutti gli sforzi sin qui fatti per la sua conservazione. Fonti consultate riportano che 3 di questi orsi sono morti nelle ultime 2 settimane, un lasso di tempo ristretto che peraltro coincide con le ultime battute della campagna elettorale per la provincia autonoma di Trento, che ha avuto nella gestione degli orsi uno dei temi più dibattuti, con anche alcuni eccessi inaccettabili, come quello di un candidato della lista Casa Autonomia, Alessio Anselmo, che ha postato sul suo profilo Facebook un fotomontaggio che lo ritrae mentre cavalca un orso che corre in un fiume. Il post esordiva con un perentorio: grigliata di orso, questo succederà quando saremo al governo del Trentino. Nel suo post, poi rimosso sulla scia delle polemiche, Anselmo spiegava di voler cambiare la normativa per consentire ai cacciatori di fare con orsi e lupi quello che già stanno facendo con cervi e altri animali. Riportiamo anche la conclusione del comunicato del CAI, la storica associazione degli alpinisti italiani fondata da Quintino Sella, che proprio in questi giorni tra l'altro celebra i 160 anni di attività. E la conclusione è questa: non possiamo tacere, tollerare e accettare il clima d'odio e di caccia alle streghe che si è creato e che probabilmente è alla base di quello che sembra essere un miope e illegale regolamento di conti. Dunque giustizia per Juan Carrito, giustizia per Amarena, giustizia per F36, giustizia per questi ultimi 2 orsi trovati morti e per tutti gli altri bracconati e reclusi in Trentino. Noi saremo sempre, sempre dalla loro parte. Parliamo ancora di orsi, stavolta vi diamo una buona notizia. Sta girando in rete il filmato dei cuccioli dell'orsa Amarena, diffuso dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ad opera dei carabinieri forestali. L'orsa Amarena, lo ricorderemo, è l'orsa che è stata uccisa a fine agosto. Le immagini mostrano due orsacchiotti belli in carne, oltre 20 kg di peso, il che confermerebbe la loro capacità di cavarsela da soli. Siamo stati tutti molto in pena per loro, perché gli è mancata la mamma quando erano ancora dei ragazzini, e la gioia nel vederli mentre si arrampicano sugli alberi dai quali raccolgono la frutta in grande autonomia è ovviamente enorme. Il parco ha diffuso un comunicato nel quale commenta il video e ci aiuta anche a ragionare intorno ad alcuni nodi critici. Vi leggiamo una parte del comunicato che ci sembra molto interessante. I giovani orsi di Amarena stanno bene e continuano le attività quotidiane che in questo periodo svolgono tutti gli orsi nel parco: girare e alimentarsi prima dell'ibernazione invernale. Un primo elemento da evidenziare è relativo alle dimensioni dei due giovani orsi, che noi chiamiamo cuccioli ma che piccoli non sono, e alla vitalità che esprimono, dimostrando che si stanno adattando all'ambiente e ce la stanno mettendo tutta, a un mese e mezzo circa dall'uccisione di Amarena. I giovani orsi hanno tutte le possibilità e la vitalità per farcela da soli, ma i pericoli e le possibilità che gli accada qualcosa sono comunque tante. Sarebbe così anche se ci fosse stata la mamma Amarena. La letteratura scientifica infatti è chiara in questo senso: il 50% dei cuccioli non supera il primo anno di vita, a prescindere dalla presenza della mamma. La caratteristica fondamentale della conservazione dei grandi carnivori dunque non è ridurli ad animali domestici per soddisfare le nostre emozioni, ma preservare il territorio in cui vivono, mantenendo quindi intatta la loro selvaticità, per perpetuare la specie senza che l'uomo entri nei meccanismi della natura che, dove è integra perché protetta, è in grado di fornire tutto ciò di cui gli animali selvatici hanno bisogno. E se abbiamo deciso di fare scelte impopolari, lo abbiamo fatto esattamente perché la scienza e l'esperienza maturata in 100 anni di natura protetta non sono poca cosa, e perché la salute degli orsi marsicani liberi per noi è di prioritaria importanza. Beh, ci sembra un interessante comunicato e che ci sentiamo di sposare, soprattutto laddove evidenzia che la gratificazione umana non può essere un criterio alla base della gestione di un parco popolato da altri viventi. Il video e il comunicato hanno scatenato tantissime emozioni, ma soprattutto hanno raso al suolo tutte le bufale che girano sugli orsi in genere, come per esempio quella che gli orsi avrebbero fame e che sarebbe necessario portargli da mangiare perché quelle zone sarebbero in preda a una terribile carestia e che dunque gli orsi si avvicinerebbero ai paesi perché non hanno da mangiare. Evidentemente ci sono altre ragioni molto complesse e questi racconti sono decisamente semplicistici. Non è il cibo il principale problema di questi orsetti e dei loro fratelli maggiori. Se non ce la faranno, e noi faremo gli scongiuri perché invece ce la facciano, sarà per altre e più serie ragioni. In primo luogo la nostra generale ignoranza intorno agli altri animali. Motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, Come abbiamo già anticipato, il 7 di ottobre scorso si è svolta a Milano una grande manifestazione in forma di corteo a seguito dell'eccidio di Sairano del 20 settembre, quando in provincia di Pavia, all'interno di un rifugio, di un santuario per animali liberati dallo sfruttamento e dalla schiavitù, sono stati uccisi una decina di individui suini. La rete dei santuari di animali liberi ha organizzato varie forme di protesta, ma sicuramente quella più impressionante è stata quella del 7 ottobre a Milano, tappa storica dell'antispecismo italiano per vari aspetti che sono stati sottolineati da molti attivisti. Vi riporto alcune frasi pronunciate da Silvia Molè in un suo bellissimo intervento. Silvia Molè è un'attivista antispecista. Allora, lei sottolinea due aspetti. Innanzitutto l'aspetto numerico, oltre 10.000 manifestanti, quindi si parla di un numero che non si vedeva da moltissimi anni in piazza, soprattutto nelle piazze animaliste, e c'è da dire soprattutto nelle piazze che non riguardano strettamente i cani cosiddetti da compagnia. Quindi qui non si parlava di cani, dei cani di Green Hill, che avevano smosso tantissime emozioni e tantissima militanza, forse perché erano cani, e già il numero si era ridotto tantissimo quando invece si trattava di topi vittime di vivisezione. Qui ci sono state migliaia di persone che invece si sono mobilitate per degli animali vittime di sfruttamento industriali, animali che solitamente vengono mangiati, cioè maiali. E il fatto che migliaia di persone insieme abbiano intonato Bella Ciao. Come dice Silvia Molè, c'è stata una prospettiva più intersezionale rispetto al passato, perché la liberazione umana e la liberazione animale sono indissolubilmente connesse, questa è la prospettiva antispecista, e l'antifascismo è la base su cui costruire critica e dissenso rispetto al sistema neoliberista odierno, di fronte ai cui interessi ogni approccio morale diventa inefficace ed errato. Secondo Silvia, è stata originale la resistenza fisica e materiale dei corpi che si sono interposti, le barricate volte a impedire l'uccisione degli individui sui hanno dimostrato che un movimento di liberazione non si fa fermare dalle manganellate né dalle menzogne di Stato, e ha dimostrato come in ottica antispecista non siano solo gli ecosistemi o genericamente delle specie a dover essere tutelate, ma ogni individuo, in quanto ogni individuo conta, sano o malato che sia, lontano da paradigmi abilisti e conseguenti altari sacrificali in nome del profitto della classe padronale. Molto incisivo questo intervento di Silvia Molè, che conclude così: il corteo del 7 ottobre è stato frequentato anche da realtà antagoniste, anarchiche, aree di sinistra moderata e radicale, realtà femministe e transfemministe, a dimostrazione del fatto che l'unione delle lotte non solo è possibile, ma è già una realtà, e in questo senso può costituire davvero un pericolo per lo status quo. La strada da fare è ancora lunga, il lavoro davanti è immane, però ormai è stato segnato un percorso. Protestare significa dire sono contrario, resistere significa impedire o cercare di impedire materialmente il sopruso, facendo saltare anelli del sistema. E brava Silvia Molè, che in un breve intervento ha riassunto un po' tutto lo spirito della prospettiva antispecista e dell'azione diretta antispecista. Do it. anche questa settimana abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. E anche questa ricetta, come tutte le altre, sarà a tema. Stavolta abbiamo chiesto allo chef di dedicare un piatto speciale all'orsa Amarena, la mamma orsa marsicana recentemente uccisa nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dedicare ad Amarena una ricetta a base di amarene non è la cosa più originale del mondo, ma se la ricetta è quella dei biscotti napoletani all'amarena, sono disposto ad accettare qualsiasi ispirazione banale. Ah, non fatevi ingannare dal nome, non sono dei biscottini, ma dei veri e propri dolcetti. Gli ingredienti per 10 biscotti sono, per la pasta frolla, 300 g di farina tipo 0, 20 g di farina di riso, 30 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna, 100 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di latte vegetale, un cucchiaio di lecitina di soia, 60 ml di acqua, la scorza grattugiata di mezzo limone, un pizzico di curcuma in polvere, vaniglia, un pizzico di sale e 5 g di crema tartar. Per il ripieno, 300 g di amarene sciroppate o della marmellata di amarene, 400 g di biscotti veg oppure avanzi di pan di Spagna, della vaniglia e infine della granella di nocciole per decorare. Preparate la pasta frolla, emulsionate il latte di soia, la lecitina e l'olio di semi di girasole con un frullatore ad immersione. In un recipiente unite tutti gli ingredienti per la frolla, lavorate fino ad ottenere un impasto ben amalgamato. È importante non lavorare troppo per dare maggior friabilità alla frolla, in caso contrario questa tenderà a diventare elastica. Avvolgete la pasta nella pellicola e fate riposare per 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo preparate la farcia. In una ciotola sbriciolate i biscotti o il pan di Spagna e unite le amarene tritate o la marmellata, della vaniglia e impastate bene. Se lo gradite potete aggiungere un cucchiaio di cacao amaro in polvere. Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido. Stendete l'impasto su un foglio di carta forno e realizzate un rettangolo spesso un centimetro, quindi fate riposare in frigorifero per mezz'ora. Recuperate la frolla e tiratela in una sfoglia di mezzo centimetro di spessore, realizzando un rettangolo. Disponete al centro la farcia e avvolgetela con la frolla, sigillando i bordi, cercando di non sovrapporli, come per uno strudel. Fate riposare ancora 10 minuti in frigorifero, recuperate il tutto e spennellate con latte vegetale o acqua e formate al centro, per tutta la lunghezza, una striscia con la granella di nocciole. Infine tagliate dei biscotti alti circa 4 cm e disponeteli su una placca e infornate a 175 gradi in modalità statica per circa 20 minuti. Fate raffreddare prima di servire. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegana. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Zenone Sovilla, Roberta Marino, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 717 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.